ogni ora mi avvicina alla fine con te. Abbracciami mentre tutto brucia, abbracciami prima di finire in cenere. Se non è mai iniziato niente, non potrà mai finire niente. Abbracciami mentre tutto brucia, abbracciami prima di finire in cenere. Se non è mai iniziato niente, non potrà mai finire niente. Non potrà mai finire niente. Abbraccio.